Incontri di Gianfranco Fabi. Però ho visto la Francia dalla neve al mare, e sul piatto della bilancia la mia vita pesare, le colombe, i serpenti e gli sciocchi, ed il rosso ed il nero. Ha sentito una canzone, la voce che mi chiamava e che diceva il mio nome. Buongiorno, con Fiorella Mannoia, Giovanna D'Arco, una voce che chiamava il mio nome. Iniziamo così l'incontro di oggi con Luigino Bruni, professore associato di economia politica all'Università di Milano Bicocca, e tante altre cose che vedremo più avanti nel nostro incontro. Ma innanzitutto chiediamo a Luigino Bruni perché Giovanna D'Arco, perché questa voce che indicava il mio nome. Buongiorno, innanzitutto perché è una storia di una giovane donna che ha seguito una vocazione. Io credo che la vita sia cercare di rispondere al daimon socratico, cercare di capire che cosa si può dare di bello e poi seguire questa vocazione, accudirla tutta la vita. Quindi questa canzone mi ispirava l'idea. Poi di una giovane e di una donna, cioè le due grandi risorse dell'economia oggi non valorizzate. Quindi l'ho scelta per questo motivo. Quindi un'economia che può sempre avere un volto umano, un volto delle persone che usano l'economia come uno strumento per essere all'interno della società. Sì, che l'economia alla fine è principalmente una faccenda di persone, non solo, non tanto di capitali, di tecnologie, ma di gente che ha capacità di innovare, di guardare il mondo diversamente, di occhi, di sguardo sul mondo. E quindi la persona oggi, anzi più oggi che magari 30 anni fa, dove erano molto più importanti i capitali, le fabbriche, i capannoni, gli impianti, oggi la concorrenza si gioca sulle persone, sugli sguardi, sulla capacità di vedere qualcosa che altri non vedono. Ecco, Luigino Bruni, un identikit della sua esperienza, di come è arrivato a fare l'economista, che cosa voleva fare da piccolo? Ma io da piccolo non ho avuto una vocazione da economista, anche perché credo che un ragazzo quando ha 10-15 anni non associa l'economista a qualcosa di particolarmente interessante da fare da grande. Però volevo fare qualcosa, ho sempre avuto voglia di spendere la vita per qualcosa di grande, cioè come penso dovrebbe fare ogni giovane che cresce in modo sano, cioè di impegnarmi. Quindi ho studiato con passione, avevo tante cose che mi interessavano, non solo la scuola, lo studio da adolescente, credo questo sia anche normale. E poi lavorando, cioè studiando, ho scelto economia quasi per caso. Poi, però l'ho scelta perché io in quegli anni anche avevo tanta voglia di impegnarmi per un mondo diverso, per un mondo migliore. Dove e quando ho studiato? Io ho studiato negli anni, seconda metà degli anni 80, perché ora ho 44 anni, ho cominciato l'università nel 86 ad Ancona e l'ho quasi scelta per caso. Però un caso che aveva dietro uno sfondo, cioè dicevo l'economia è al cuore della vita civile. Questo l'avevo colto perché vengo da una regione, le Marche, che sono di piccole imprese, i miei genitori hanno sempre avuto a che fare con l'economia, vivevo in un mondo dinamico e vedevo che l'economia, quindi un mondo non lo cambi se non cambia l'economia. Erano gli anni in cui all'Università di Ancona c'era Giorgio Fua, che è stato uno dei grandi interpreti della società italiana, soprattutto della realtà delle piccole e medie imprese, della realtà fondata molto sull'imprenditore, sull'intraprendenza, sulla volontà di scoprire sempre nuovi confini. Certamente, e anche Fuà il primo che in Italia nel 93 scrive un libro sulla felicità. Oggi non abbiamo dimenticato, ma il primo libro critico sul PIL come indicatore di benessere è di Fuà. E io ricordo questo personaggio, questa persona che era carismatica ad Ancona, era un professore già anziano, però ecco, che mi diede l'idea di cosa potesse essere un economista come impegno civile. C'è un economista civile che interpreta la scienza per l'incivilimento, per anche la scelta di intitolare a Adriano Olivetti il suo centro studi di Stao. Non è casuale, cioè Adriano Olivetti che è un'altra figura carismatica dell'Italia di quel tempo, cioè studiare economia ma in un modo diverso, la tradizione italiana, anche Giorgio Fuà era un erede della grande tradizione italiana civile, dell'economia appunto che oggi chiamiamo civile, e un'economia delle persone. Ecco, c'è questo termine, proprio economia civile, che risuona spesso nei suoi scritti, nelle sue sì. proposte, e anche scritto peraltro con Stefano Zamagni, un dizionario di economia civile, però è un termine che altri usano poco, per ora è un termine molto italiano. Come... Sì, è italiano perché intanto fu scelto dagli economisti italiani del Settecento come parola per l'economia nuova che nasceva, mentre gli inglesi scelsero l'economia politica, gli italiani scelsero l'economia civile. Che c'era un riferimento a cosa? All'umanesimo civile, all'incivilimento, cioè all'idea delle virtù civili, questa grande tradizione antica, aristotelico-tomista, del bene comune, cioè che la vita buona è vita civile. Poi la civitas non è la polis, il civile non è il politico, perché non voglio fare cose troppo complicate, ma la polis, da cui politica greca, nasce attorno all'etnia, all'appartenenza a una tribù che fondava Atene. Mentre la civitas romana nasce attorno all'idea di inclusione anche degli stranieri, cioè nasce attorno a un patto di cittadinanza, quindi il civile è più inclusivo, è più universalistico, e a noi piace molto questa idea di economia che include chi è fuori, che fa diventare, diciamo, il diverso, lo straniero, opportunità di crescere insieme. Quindi è anche un'economia che guarda molto all'etica. Lei peraltro è anche vice direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Etica d'Impresa, è direttore del corso di perfezionamento di economia civile non profit, membro del comitato editoriale della rivista Nuova Umanità. Ecco, tanti incarichi in una direzione forse unica. L'etica, di cui si parla molto in questo momento, soprattutto dopo le conseguenze della crisi economica, è qualcosa di cui si parla molto, ma che forse ha bisogno sempre di essere sempre più non solo ricordata, ma messa in pratica. C'è un problema di etica nella società attuale. Certamente che c'è un problema di quale etica, perché l'etica è al cuore di qualunque scelta umana, perché l'etica significa la vita in comune, cioè l'etica disciplina i rapporti umani, che oggi abbiamo un'etica dell'individuo, poco un'etica della persona, un'etica della persona in quanto soggetto in relazione con gli altri. Quindi io, dal mio punto di vista, per come riesco, e con tanta altra gente, perché io sono dentro un gruppo di ricerca italiana internazionale con tante persone che lavorano su questi temi, cerco di dire oggi l'etica più importante è l'etica delle relazioni tra diversi, le relazioni difficili, perché la grande sfida della globalizzazione è come riuscire a vivere insieme senza obbedire o comandare, che era il principio che governava il mondo antico, tra uguali, perché gli esseri umani non fanno fatica a comandare o obbedire, fanno fatica a stare insieme ad altri sul piano di uguaglianza. E quindi questa è la sfida etica di oggi, è stare insieme tra uguali senza diciamo rendere la vita troppo conflittuale. Ecco, sì, una sfida molto, molto difficile, molto complessa. Io tornerei però un attimo all'Università di Ancona. Dopo l'Università di Ancona, qual è stato il suo percorso accademico e professionale? Sì. Beh, io ho studiato... Prima ho studiato storia del pensiero economico, perché mi piaceva la storia, capire l'origine del pensiero economico, in genere del pensiero. Quindi ho fatto un dottorato a Firenze in storia del pensiero economico con persone come Piero Barucci, forse conosciuto in Italia, ed altri. E lì ho studiato, sono stati gli anni forse più appassionanti come studioso, perché scoprì dei manoscritti inediti di economisti importanti italiani, Vilfredo Pareto, e passai anni in biblioteca ed archivi a studiare questi personaggi. E ho fatto la fatica del concetto, cioè ho imparato il mestiere nelle botteghe. Quindi questi anni di dottorato, io credo che un giovane deve fare cose difficili. Cioè io ricordo la difficoltà di riuscire a decifrare quei testi, di mettere insieme manoscritti spezzettati, interpretare delle storie con anelli mancanti. Ricordo la fatica e la disciplina che ci dava in quegli anni l'Università Italiana. Io credo che oggi sia importante a un giovane indicare non traiettorie facili, ma dire i primi anni, quando si è giovane occorre faticare molto. Io ricordo anni di grande fatica, ma anni di grande gioia. Ecco, indubbiamente anche avere la fiducia che quello che si fa sia utile, possa servire. Uno può pensare che andare alla ricerca delle lettere di Pareto può essere solo un'ambizione intellettuale, ma che poi non possa avere effetti pratici. Questa fiducia ce l'aveva dell'utilità delle cose. Sì, ce l'avevo intanto perché, diciamo, la verità è un valore intrinseco. Cioè capir bene una cosa, ricostruire una storia, anche micro, un particolare, ricostruire come, nel mio caso, come si sviluppa il pensiero di un autore importante, che ha fondato l'economia del Novecento, ha un valore intrinseco, cioè la verità ha uno splendore in sé, anche se magari non ha subito un'applicazione. Io, come dire, in quegli anni, cercando di esercitarmi su un tema difficile, ho imparato la disciplina del lavoro. Cioè poi, come dire, crescendo, si accorge che il mondo non è solo fatto di libri, è fatto di persone, di progetti di sviluppo, le cose di cui mi occupo oggi, di giustizia, di povertà. Però quella disciplina di far bene una trascrizione di un manoscritto, di scrivere bene un saggio su un particolare, quella disciplina credo che sia la base di qualunque lavoro, dal muratore al professore universitario. Ecco, questo a Firenze, poi da Firenze è arrivato a Milano. Prima ho avuto qualche anno in Inghilterra, dove ho fatto un secondo dottorato in teoria economica, perché sentivo che non bastava la storia per capire bene l'economia. Quindi ho fatto altri 3 anni a Londra e poi a Norwich, cioè la London School of Economics e poi nell'East Anglia, dove ho studiato proprio la teoria economica, in particolare ecco, l'etica ed economia, filosofia ed economia, quindi mi sono spostato sempre di più su tematiche diciamo teoriche. E cominciare una seconda parte della mia vita, che ancora continua oggi, cioè di come so e come posso cercare di fare teoria e non solo di raccontare il pensiero degli altri, ma dire un po' la mia sul mondo. E adesso dove vive? Ora vivo vicino a Firenze, in un piccolo paese, in Cisavaldarno, Loppiano in particolare, una piccola città, però lavoro a Milano, quindi faccio come tanti italiani il pendolare di lungo corso. E quindi alterno alcuni giorni a Milano e con altre attività, perché coordino dei progetti di sviluppo, di economia civile e di comunione. Loppiano mi sembra sia la sede di un movimento ecclesiale. Sì, sì, sì. Incontri. Riprendiamo, buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Riprendiamo il nostro dialogo con Luigino Bruni sull'onda delle note di Fiorella Mannoia, di Giovanna d'Arco, di cui abbiamo parlato nella prima parte, la prima parte in cui abbiamo tracciato l'esperienza del professor Bruni, esperienza che è passata attraverso l'Università di Ancona, studi poi in Gran Bretagna, adesso è tornato in Italia, insegna all'Università di Milano, vive a Firenze, vive a Loppiano, e dicevamo Loppiano è un po' la sede del movimento dei focolari, quindi lei è anche un esponente di questo movimento. Sì, sì. Ne faccio parte fin da quando ero ragazzo ed è stato ed è un luogo dove io ho appreso l'arte della gratuità, che è uno dei temi su cui lavoro da diversi anni, perché credo, almeno nella mia esperienza personale, ma non solo personale, che quando si incontra un'esperienza di spiritualità, diciamo spirituale, si fa l'esperienza della gratuità, cioè dell'eccedenza, che le cose vengono fatte perché sono buone in sé e non solo perché portano successo, profitto. E questo è tipico dei luoghi spirituali. E quindi da ragazzo ad oggi questa esperienza, questa dimensione della mia vita legata appunto nel mio caso a una comunità ecclesiale è il luogo dove io apprendo questa dimensione della caris, della gratuità, che poi teorizzo nel mio lavoro anche come studioso di faccende economiche. Cioè un economista che ha approfondito la storia economica, la teoria economica, può poi arrivare a pensare che la gratuità sia un elemento importante della stessa economia, che un'economia che nella visione normale è fatta di grandezze misurabili, soprattutto di soldi. Sì, perché la gratuità è al cuore dell'innovazione. Cioè l'innovazione vera nasce da passioni, nasce da attività che sono belle e buone in quanto attività. Quindi se non c'è la gratuità, non c'è l'eccedenza, non c'è la generatività, non si crea nulla. Perché occorre una forza, una dimensione più fondativa dell'umano, dove si attinge, diciamo, il nuovo. Se noi oggi guardiamo dove c'è il nuovo oggi in Italia, certamente dove abbiamo grandi capitali, ma il nuovo che cambia abbiamo dove la gente si esprime in quanto persone, va oltre il dovuto, oltre il doveroso, oltre gli interessi e crea e agisce perché segue il daimon socratico, segue in qualche modo una vocazione che in sé è sempre gratuità. Oggi parlavo con un collega di vocazione di impresa, quindi una vocazione in termini molto tecnici, e si diceva questo: la vocazione è gratuità perché si segue qualcosa che ha a che fare con l'essere e non con il fare, dalla vocazione sportiva, artistica, intellettuale. Quindi io, ecco, in questi anni ho appreso la gratuità della vita e la teorizzo nel fare economia. Ecco, la gratuità è anche un elemento che compare nell'ultima enciclica di Benedetto XVI, la Caritas in Veritate. È un'enciclica in cui lei come consulente ha messo un po' lo zampino, forse. Abbiamo dato alcune persone, abbiamo dato dei contributi. Per questo credo sia anche un modo bello di guardare anche la Chiesa. Cioè non è un luogo, le enciclica non nascono dai laboratori, dallo studio dei papi. Cioè il Papa poi fa una parte fondamentale, ma è un popolo che si esprime. I carismi, l'umanità, la pluralità, cioè ciò che nasce da quel, ciò che viene firmato da Pietro, dal re di Pietro, è qualcosa di molto ricco. È una dinamica che coinvolge centinaia di persone, popoli, culture, competenze molto diverse. Quindi questo credo dà più valore a un'enciclica. Io ho dato un contributo minimo su alcuni aspetti, altri hanno dato contributi più importanti. Comunque in ogni caso è sempre un'esperienza corale un documento che esce dalla penna di un Papa. Ecco, è significativo che anche questa enciclica sia stata pubblicata dopo la crisi economica e porti con sé una forte impronta appunto di etica, non poteva essere diversamente, sì, in un documento papale, però un richiamo forte a un'economia che sappia fare i conti con l'etica o che sappia essere essa stessa etica. Ecco, è qualcosa di complicato in una situazione attuale in cui l'economia è globalizzata, in cui sicuramente le tensioni e quello che spinge l'economia è qualcosa che rischia di sfuggire non solo alle possibilità di ogni singola persona, ma anche agli interventi degli stessi governi. Sembra un'impresa titanica il parlare di etica. Sì, anche perché l'etica è una di quelle parole un po' logore. Come, cosa voglio dire con questo? Se oggi facciamo un convegno e noi intitoliamo quale etica per il bene comune, non viene nessuno. Cioè, due parole straordinarie, bene comune ed etica, ma che sono associate oggi a pensieri, a categorie che non sembrano legate all'oggi, ai grandi temi, alle passioni grandi, ai giovani. Invece l'etica in realtà di cui parla il Papa in questo enciclica è un'etica che nasce da dentro l'economia. Perché vedete, noi abbiamo avuto una visione dell'etica in questi ultimi 100 anni un po' dicotomica. C'è l'economia e poi c'è l'etica che arriva prima o dopo, ma non durante. Io a volte ricordo i libri di etica economica o anche i libri di economisti etici dove c'era l'etica nell'introduzione, nelle conclusioni e in mezzo non c'era l'economia di tutti. C'è la sfida, io mi ricordo da ragazzo, parlando anche con Stefano Zamagni, che è stato uno anche dei miei maestri quando ero più giovane. Che è stato ospite dei nostri incontri nella primavera sì, scorsa. Lui diceva, dobbiamo scrivere dei libri diversi, non solo le introduzioni diverse. Quindi questo enciclica è un tentativo di far nascere l'etica da dentro l'economia. Infatti, paradossalmente, non è tanto interessante in quanto etica diversa, ma in quanto economia. Cioè questa enciclica che entra nel cuore dell'economia. Lei trova delle parole come impresa multi-stakeholder dentro l'enciclica del Papa. Cioè è molto più innovativa la parte economica, che io credo un'enciclica così tecnica non ci sia mai stata finora. Cioè entra dentro il mercato, la finanza, la microfinanza, la banca, cioè entra dentro, perché appunto è stata un'esperienza corale, dicevo, quindi è un tentativo di far nascere l'etica da dentro. Cioè esiste nelle cose un ordine, una vocazione interna, cioè l'economia o la riscopre l'etica da dentro oppure non può arrivare dopo come limite, come vincolo, come devi, sarebbe bello se, moral suasion. No, c'è una vocazione intrinseca all'economia che si chiama etica, che se non funziona si va fuori strada. Ecco, in fondo andare fuori strada vuol dire seguire solo delle ideologie, cioè degli schemi prefissati, non tanto la possibilità di mettere un volto umano all'interno dell'economia. Sì, noi lo sappiamo, abbiamo anche avuto studi recenti a riguardo, che una delle cause della crisi sono stati anche i modelli recenti di econometria, che erano talmente sofisticati, talmente diciamo costruiti sull'ipotesi che i mercati trovassero sempre un punto d'equilibrio, che non consentivano la possibilità della crisi neanche in teoria. Quindi, come dire, è l'antica tesi: se la realtà non risponde alla teoria è peggio per la realtà. Certo. Cioè siamo talmente convinti che la teoria è giusta che non ci preoccupiamo. Invece l'etica cosa ti rende umile e diciamo attenzione, ascolta la vita, ascolta i fatti, vai nelle imprese. A volte mi chiedo, questi grandi economisti che teorizzano questi modelli hanno mai visto un bullone, un'impresa, un cacciavite? Sono mai entrati nei rumori, nel profumo delle imprese reali? Perché se non c'è questo ascolto della vita, facciamo sempre ideologia, anche in buona fede, perché la vita è più grande delle teorie, sempre. Come vede il futuro dell'economia, di un'economia globale e magari anche di un'economia italiana che si trova comunque in una fase sicuramente in cui ha superato la crisi, però ha grossi problemi, per esempio quello della disoccupazione? Ma io lo vedo appunto ridando fiato, ridando energia alla grande tradizione italiana. Cioè noi abbiamo una tradizione che è straordinaria, ma non perché come nostalgia o come un grande passato, un incerto presente e un pessimo futuro, perché noi abbiamo una storia che dice delle cose molto importanti. Pensiamo ai distretti. Il distretto è un'idea straordinaria perché è l'idea del promiscuo, di mettere insieme il mercante e il tempio, di mettere insieme il sacro e il profano, l'abbazia con l'artigiano. Cioè il distretto, dietro i distretti italiani troviamo sicuramente spesso antiche abbazie che hanno creato dei saperi. Quindi è l'idea della cultura tacita, dove io competo con il concorrente, ma coopero su 10 fronti, dove metto insieme cooperazione e competizione, dove metto insieme la città e l'economia. Cioè il distretto è questo, cioè è un'economia civile, è tutto il villaggio che fa economia. Quindi se noi oggi siamo capaci di attivare territori, di riattivare, però cosa vuol dire oggi distretto in Made in Italy? Vuol dire oggi saper rileggere in modo non solo territoriale. Non è più possibile un Made in Italy solo legato a Prato, legato a Empoli, legato a Biella come territorio in quanto, diciamo, appartenenza. Questo rimarrà importante, ma occorre immaginare distretti extraterritoriali, la rete. Occorre mettere insieme oggi, io credo, per innovare veramente, Chianti e Giotto. Cioè la cultura, l'agricoltura, la sostenibilità con l'economia la più tradizionale. Ecco, un progetto sicuramente ambizioso, però un progetto che vede in fondo la partecipazione più diretta delle persone, la partecipazione di una persona nella sua complessità, nella sua globalità e quindi anche nella sua spiritualità. Possiamo dire che in un certo senso non si tratta tanto di battezzare l'economia quanto di considerare l'economia come uno strumento a disposizione di tutti per poter crescere in una dimensione appunto complessiva. Sì, l'economia è un pezzo di vita. L'economia ha le passioni, i vizi, le virtù della gente. Quindi noi dov'è che abbiamo sbagliato in questi 100 anni? Perché non è tanto antico l'errore. Nell'immaginare l'economia come un luogo per addetti ai lavori, la zona industriale, i luoghi della finanza, i luoghi dell'economia. E poi la vita comincia da un'altra parte. In realtà quello che io credo, insomma, ma basta guardare il mondo, l'economia è vita. Quindi dobbiamo riempire di vita l'economia. Io oggi vorrei portare gli studenti dentro la borsa, dentro le imprese, fare popolare, com'è che è accaduto con gli ospedali. Io ricordo quando ero bambino, gli ospedali si andava solo 2 ore al giorno, nelle visite, poi c'erano gli addetti ai lavori. Qualcuno disse no, la salute è troppo importante per lasciarla ai medici e agli infermieri soltanto, dobbiamo abitare gli ospedali. Penso questo valga anche per l'economia, abitarla, riempirla di vita, di passione, altrimenti se non si fa questo davvero diventa triste e cinica, perché si abbandonano i luoghi dell'economia e quindi diventano disumani. E quindi qui arriviamo a quell'economia della felicità in fondo, che ha come obiettivo ambizioso, ma che non può non essere realistico, quello di rendere felici le persone secondo, veramente, torniamo ancora all'inizio della vocazione, secondo quello che ognuno vuole per sé. Beh, l'antica idea socratica della felicità è seguire il daimon, questa è una delle più grandi idee dell'umanità. Cioè c'è in ogni persona un accesso all'eccellenza, occorre trovarlo e seguirlo. Questa è l'idea antica. Napoli nel 700 ridice che lo scopo dell'economia è la felicità pubblica, non la ricchezza, con questa bellissima intuizione: o si è felici tutti o nessuno. Si può essere ricchi da soli, ma la felicità è un bene pubblico. Questo è un messaggio ancora per l'oggi. Grazie, con questo messaggio di speranza, ma in fondo anche di sicurezza che possiamo avere gli strumenti per essere più felici tutti quanti, avendo appunto la speranza, la forza e la voglia di utilizzare il mondo, l'economia come strumenti al servizio delle persone, al servizio di una giustizia sociale, di un'etica, di una crescita complessiva di tutti, in cui anche elementi come la gratuità abbiano una forza e una presenza significativa. Io ringrazio Luigino Bruni di essere stato con noi questa mattina, ringrazio quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per domenica prossima.